Aloha! Ben ritrovati all'Early Bird Special. Questa è la prima colazione servita tutti i giorni dalle 6 alle 7 qui da Rock FM. Anche il martedì, ci mancherebbe. Io sono Chuck Bird che vi voglio intrattenere con la migliore musica in circolazione, con qualche chiacchierina che ogni tanto ci infilo tra un pezzo e l'altro. So che molti mi hanno scritto, mi hanno chiesto: ma dove le sai, dove hai saputo queste cose? Ma ragazzi, io mi chiamo Chuck Bird, sono stato un po' dappertutto, nei backstage, e quindi molte cose le ho viste con questi miei stanchi occhi. Ho una bella storia su Chuck Berry, ma ve la racconterò dopo i Chicago. O si fa un gran parlare di crossover in questi tempi, come fosse una scoperta straordinaria. Ehi, senti che geni, riescono a mischiare il thrash col death. Che ardire! Beh, lasciatevelo dire da uno che ha visto come gira il mondo. Il crossover più ardimentoso, quello realmente pericoloso e non solo dal punto di vista artistico, lo si faceva già negli anni 50. Il tipo si chiama proprio come me, Chuck, ma di cognome fa Berry. È di St. Louis, un posto dove gli afroamericani non è che siano troppo amati dalla popolazione bianca. In più, il ragazzo si è già fatto 3 anni di riformatorio per furto di auto e rapina. Un tipino mica troppo tranquillo. Ma ragazzi, se sa suonare la chitarra. A 26 anni viene chiamato a suonare in una piccola orchestra in un club chiamato Cosmopolitan. Il pubblico è formato da neri, che lui intrattiene suonando in maniera eccelsa classici del Lilly Billy, il country più rurale e standard del blues, tutto insieme. A questo punto anche i bianchi, attirati dalla fama di questo Lilly Billy nero, cominciano a frequentare il locale. Crossover, vi dicevo, e di quello che fa finire appeso un albero se siete nel posto sbagliato, al momento sbagliato e col colore della pelle sbagliata. Eppure Chuck Berry ne viene fuori alla grande, riuscendo a far confluire nelle sue canzoni il suono e il feeling di due culture che fino a quel momento non volevano incontrarsi per nulla al mondo. Chuck Berry semplicemente inventò il rock and roll. Just let me hear some of that rock and roll music, any old way you choose it. Any old time you use it, it's gotta be rock and roll music. If you wanna dance with me, if you wanna dance with me, I have no kick against modern jazz. Unless they try to play it too darn fast and change the beauty of the melody until it sounds just like a symphony. That's why I go for that rock and roll music. Any old way you choose it, it's got a backbeat, you can't lose it. Any old time you use it, it's gotta be rock and roll music. If you wanna dance with me, if you wanna dance with me. I took my loved one over across the tracks so she could hear my man a wailing sax. I must admit they have a rocking band. Man, they were blowing like a hurricane. That's why I go for that rock and roll music. Any old way you choose it, it's got a backbeat, you can't lose it. Any old time you use it, it's gotta be rock and roll music. If you wanna dance with me, if you wanna dance with me. Way down south they gave a jubilee. The Georgie folks, they had a jamboree. They're drinking home from a wooden cup. The folks dancing got all shook up and started playing that rock and roll music. Any old way you choose it, it's got a backbeat, you can't lose it. Any old time you use it, it's gotta be rock and roll music. If you wanna dance with me, if you wanna dance with me. Don't care to hear them play a tango. The mood to dig a mambo. It's way too early for the Congo. So keep a rocking that piano so I can hear some of that rock and roll music. Any old way you choose it, it's got a backbeat, you can't lose it. Any old time you use it, it's gotta be rock and roll music. If you wanna dance with me, if you wanna dance with me. Oh, oh, oh, oh, yeah. Days filled with joy and days filled with sorrow. I don't know just what to do. Am I happy today? Am I lonely tomorrow? Everything depends on you. I've been waiting for the angels to knock on my door. I've been hoping that everything could be like before. Open your heart and tell me what's wrong. Why can't you talk like you used to do before? The angels to knock on my door. Open your heart, apri il tuo cuore, che poi, detto fra noi, è il miglior metodo per conquistare una ragazza. E se non bastasse, allora comprate un anello costoso. Ricordate, una donna può rifiutare un gioiello finché non l'ha visto. Dopo diviene eroismo. E di donne eroiche, credetemi, ce ne sono poche. Il vecchio Chuck ha un attacco di misoginia. Le passerottine mi si rivolteranno contro e la piccola Cherie non mi porterà più il caffè. Oh no. Per tutte le passerottine un regalo speciale da Chuck Bird. Free Will, dai Rush. I Rush, l'Early Bird Special, ve lo dicevo o no? Che qui c'è la migliore musica in circolazione. E ragazzi, se ve lo dice Chuck Bird, potete crederci. Potete anche scrivere al vecchio Chucky Boy, semplicemente digitando sulla vostra tastiera bird@radiorockfm.com. E in attesa delle vostre mail, vi regalo un po' di Argent. God save rock and roll to you. Thank you. come gli appassionati ascoltatori di Early Bird Special sanno, a questo punto il vecchio Chuck Bird ha bisogno della sua dose quotidiana di caffeina, che naturalmente gli viene fornita da quella dolcissima ed elegantissima ragazza di Rock FM che risponde al nome di Cherie. Thank you, Cherie. Soul Man, I'm a Soul Man, che non significa sono un uomo solo. Una volta agli albori delle radio private sentì un DJ che lo annunciava in questa maniera, lanciando la band come i Fratelli Brothers. Ragazzi, vi va un po' di zucchero nel caffè? Ne ho qui una tonnellata. I diabetici sono avvertiti. Arrivano i Beach Boys con God Only Knows. I may not always love you, but long as there are stars above you, you never need to doubt it. I'll make you so sure about it. God only knows what I'd be without you. If you should ever leave me, well, life would still go on, believe me. The world could show nothing to me. So what good would living do me? God only knows what I'd be without you. Ba ba ba ba ba. never leave me. The life would still go on, believe me. The world could show nothing to me. So what good would living do me? God only knows what I'd be without you. God only knows what I'd be. Best rock and roll station in the world. It's Rock FM. American woman, gonna mess your mind. American woman, she gonna mess your mind. American woman, gonna mess your mind. American woman, gonna mess your mind. Say A, say M, say E, say R, say I, C, say A. American woman, gonna mess your mind. American woman, gonna mess your mind. American woman, gonna mess your mind. American woman said, get away. Guess Who, American Woman. Mi piace cantare la mattina presto e spero che cantiate anche voi, perché è il modo migliore per iniziare la giornata. Questo è l'Early Bird Special. La ricetta? È facilissima. Grande musica, come potete sentire da questa frequenza, e il vecchio Chuck Berry che ne racconta qualcuna delle sue. Ne ho una forte su Ramones, ma ve la racconto dopo gli Aerosmith. Dream On. Come sapete, le storie che vi racconta Chuck Berry non sono sempre quelle che riguardano i momenti topici della vita delle rockstar o delle loro band. Spesso Mi piace guardare nei dettagli, nelle piccole vicende che ruotano attorno alle band e soprattutto ai fans. Questo è il racconto di un certo Roger Risco, che ebbe la fortuna di assistere a un concerto dei Ramones nel 1976 in un club chiamato Chench, o Chance, a Poughkeepsie, difficile questa, nello stato di New York. Roger ci racconta che nel momento in cui la band fece la sua prima pausa del set, per dare tempo a Johnny Ramone di cambiare la chitarra e a Didi di regolare l'ampli del basso, tutta la gente che affollava il club era uscita disgustata per strada. Proprio la reazione sdegnata di quella gente convinse Roger a rimanere fino alla fine. Tutto questo lo cambiò profondamente. Tornato a casa, si tagliò la sua barba da hippie e il giorno dopo andò nel suo negozio di dischi di fiducia e si comprò il primo album dei Ramones. Da quel giorno il suo nome fu Roger Ramone ed era così contento che poco dopo si sposò con la sua fidanzata, una certa Nancy Morgan. Ecco l'effetto che potevano fare i Ramones: far scappare il pubblico o farlo innamorare e incrementare il numero di matrimoni. Noi stamattina ci limiteremo a cantare con loro. Siete pronti? Hey, ho, let's go! Ramones tra i miei preferiti, anche al mattino presto, Blitzkrieg Bop. Questo è l'Early Bird Special e il vecchio Chuck Bird vuole ascoltare anche le vostre storie di rock and roll. Come vedete mi piacciono anche queste cose qui, dei fans che ascoltano un gruppo, si innamorano, si sposano addirittura. Raccontatemi le vostre storie di rock and roll scrivendomi a bird@radiorockfm.com. Siamo giunti alla fine, ma non ancora alla fine. Ho ancora tempo per farvi ascoltare una canzone. Vi vanno i Pink Floyd, Another Brick in the Wall. Certain teachers who would hurt the children anyway they could. E anche questo martedì termina qui. Fa rima, ma non è assolutamente voluta. Il vecchio Chuck Bird vi ringrazia per l'ascolto, ragazzi, e ci troviamo naturalmente domani, mercoledì, sempre dalle 6 alle 7, sempre dalle frequenze di Radio Rock FM. Io vi ringrazio per l'ascolto e vi lascio con Ariele e Freak Anthony. Loro vi serviranno pane, burro e rock and roll. Aloha!